Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Ale. Senza fretta. Ed è campione del mondo per la seconda volta. Paolo Pizzo è campione del mondo di spada maschile individuale. Nessun italiano era mai riuscito in questa impresa. Un grandissimo Paolo Pizzo. Il re di spada, ebbene sì, oggi a Olimpia, la città degli dei dello sport, abbiamo ospite persino un re, perché Paolo Pizzo, a 34 anni, può essere davvero ben definito il re della spada italiana. Due volte campione del mondo a distanza di 6 anni, Catania 2011 e proprio quest'estate a Lipsia 2017, nuovamente sul tetto più alto del mondo. Lui che, pensate, in carriera non ha mai vinto una gara di Coppa del Mondo, ma riesce veramente a farsi trovare pronto nelle occasioni che contano, così come è stato lo scorso anno a Rio de Janeiro, dove ha trascinato la squadra ad un prezioso argento. Ebbene, proprio lui è il protagonista di questa puntata, insieme a quello che è il mio compagno di viaggio quest'anno a Olimpia, il professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive all'Università Cattolica di Milano. Benvenuto, ben ritrovato a Olimpia, professor Tirelli. Grazie Dario e buonasera a tutti gli ascoltatori. Beh, oggi viaggiamo alla scoperta dei segreti, dei misteri, ma anche delle splendide storie e vittorie della carriera di Paolo Pizzo. E allora è in diretta ospite qui a Olimpia, proprio lui. Benvenuto Paolo Pizzo a Olimpia, la città dello sport. Ciao, grazie a te e a chi ci ascolta. Allora Paolo, ben trovato. Descrivici subito l'emozione di Lipsia quest'estate. Tornare a vincere un oro mondiale a 6 anni di distanza è un'impresa davvero grande. In un'annata, del resto, davvero da 10 lode per te. Sì, è davvero un magic moment. Io non potrei aver vinto quell'oro mondiale se non fosse per l'argento europeo che ho raggiunto e ho catturato un mese prima in quel di Tbilisi, in Georgia. Sapete com'è, quell'argento europeo individuale adesso sembra piccolo in confronto al mondiale, però è stata una gara difficilissima dove magari ho capito di poter fare ancora qualcosa di grande. Quindi là l'ho dato a quella gara lì e poi sì, un gioco di parole che mi ha permesso dopo un mese di tornare sul trono più alto e importante del mondo. Pensare ancora a Lipsia un mese e mezzo dopo mi fa venire i brividi. Riguardo quella gara nei video e non mi riconosco, un giorno fantastico. Ecco, che differenza c'è tra l'oro di Catania del 2011 e quello di Lipsia oltre ai 6 anni passati? Che sapore hanno questi due ori? Sì, hanno tutte un bel sapore. Io in particolare le mordo tutte appena me le consegnano, me le mettono al collo. Quindi la differenza può essere quella che ho imparato un po' a distinguere questi sapori con l'esperienza, con l'età. Quello di Catania era un oro precoce, un oro selvaggio. Questo campionato mondiale di Lipsia invece è stato un oro davvero costruito giorno per giorno in palestra col mio staff molto numeroso, di persone giuste. Ho 5-6 professionisti che ruotano attorno a me. Ognuno m'ha stillato qualcosa per essere perfetto quel giorno, dalla respirazione alla mentalità, alla preparazione fisica, alla tecnica in pedana. Davvero la differenza sta in questo. L'oro mondiale di un mese e mezzo fa è consapevole, quello di Catania è un oro selvatico. Senza dimenticare, e come potremmo farlo, che l'anno scorso era arrivato anche uno splendido argento olimpico con la squadra di spada a Rio 2016. Anche quello è verissimo, è una gara che è difficile da togliere dalla mia mente, ma per sempre. Capite, un atleta che nasce in una piccola palestra siciliana, poi si trasferisce con questo sogno mitico delle Olimpiadi. Ci arrivi una volta e fallisci, ci arrivi la seconda volta e raggiungi questo argento a squadre con dei ragazzi che poi entrano a far parte quasi della tua famiglia. Il percorso è stato meraviglioso, davvero adesso mi sto preparando un tatuaggio che ricordi appunto quell'argento olimpico. La medaglia la tengo vicina in camera, non riesco a separarmene. Professor Tirelli, una domanda per Paolo Pizzo, pronto come sempre in pedana a risponderle. Sì, Paolo, una domanda. Come riesci a trasformare la tua capacità individuale in una forza che ti appartiene, che è quella di uomo gruppo, uomo squadra? Guarda, se mi sentono dire che sono il leader, mi ammazzano, quindi non sai com'è, no? Ogni squadra ha i suoi equilibri. Più che leader, posso essere chi mette in cascina tanto fieno, tantissimo. Io sto in mezzo, ho un ruolo particolare come un centrocampista che fa delle barricate, messo in mezzo, e faccio molti punti, molte stoccate. Ora non sto a entrare nel tecnico, quindi diciamo sono un po' l'anima, perché né apro né chiudo, ma faccio molti match intermedi che segnano un po' l'andamento del match, quindi se ho una giornata negativa è difficile che ne riusciamo a venire fuori. In una positiva invece magari riesco a trascinare gli altri col mio entusiasmo e il mio modo di essere. Una grinta che si è forgiata nella battaglia, nel duello più difficile, Paolo, ricordiamolo. Quando da ragazzino hai vinto la sfida con un tumore al cervello. Come pensi abbia influito quella sfida, quella vittoria nella tua crescita come uomo e come atleta? È chiaro, c'è una connessione. Io ora non so stabilire in che percentuale ho vinto grazie al fatto di essere venuto fuori da una cosa del genere. Posso dire molto semplicemente ho una grossa cicatrice in testa e ne ho una ancora più grande, immensa, dentro, invisibile. Quella però mi ha segnato, mi ricorda sempre a vivere con un certo entusiasmo, a metterci tutta la passione possibile in tutti i momenti della giornata, e probabilmente anche non arrendermi mai. Ora io sono stato davvero fortunato a venire fuori da un tumore al cervello. Posso dire solamente quello che mi ha insegnato questo percorso è che ogni momento di questa vita vale la pena di essere vissuto al 100%, e forse esagero nel mio entusiasmo, gli altri anche cercano di tenermi buono, mi prendono in giro, parlo di squadra, però questo è quello che sono. Tanta grinta, due ori mondiali vinti, allora, ma anche una macchia da cancellare al più presto, mi raccomando, nel palmarès. Mai vinta una gara di Coppa del Mondo, Paolo? Esatto, vedo che sei preparatissimo anche nelle mie lacune, è giusto, non ho ancora vinto una gara di Coppa del Mondo, ovviamente vengo preso in giro da tutti in nazionale, anche dagli atleti delle altre armi, per questa mia sorta di mancanza. È come vincere uno scudetto senza vincere una partita, o vincere un Giro d'Italia senza vincere una tappa, molto particolare, però forse qualcosa si accende dentro di me, perché nella scherma non puoi sbagliare nulla. Come se in quei grandi appuntamenti sentissi il bisogno di dover essere perfetto. Ogni tanto per fortuna ci riesco. Beh, Paolo, allora, prima di andare avanti nella nostra chiacchierata, subito una promessa. Quest'anno la vittoria in Coppa deve arrivare e devi tornare qui a Olimpia a festeggiarla, mi raccomando. Guarda, ne parlo tutti i giorni con i miei preparatori, prima o poi riuscirò in questa impresa, sembra titanica, una delle 8 tappe stagionali del 2017-18, spero di farla mia finalmente. Allora, adesso prendiamoci un attimo di pausa col professor Tirelli sempre qui al mio fianco, poi torneremo a raccontarvi le imprese, le vittorie, anche qualche sconfitta, e a scoprire i segreti di Paolo Pizzo, il nostro re di spada, oggi qui ospite ad Olimpia. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta Olimpia, miti e verità dello sport. Il re di spada oggi ospite di Olimpia. Paolo Pizzo, catanese, 34enne, due volte campione mondiale individuale di spada, appunto. Stiamo ripercorrendo la sua carriera, la sua storia. E fra poco, con l'aiuto del professor Tirelli qui al mio fianco, proveremo a svelare almeno alcuni dei segreti della sua mente e del suo cuore. Ma intanto, Paolo, proprio a proposito di preparazione mentale, so che hai un mental coach davvero particolare per uno schermidore. Cioè, le vie dello sport sono infinite. In un volo per Montreal ho incontrato il coach del baseball italiano, Marco Mazzieri, che mi ha consigliato un mental coach di baseball. Questa persona è un americano, è preparatissimo e mi ha preparato alle Olimpiadi. Quel giorno ero una furia, ero un frigorifero, non mi freddissimo, nessuno poteva toccarmi, neanche le 10.000 persone del pubblico. Sai, noi della scherma non siamo abituati a un pubblico così presente e importante, e quindi ho capito ancora una volta come ho dei limiti, i limiti mentali. La preparazione non era stata affinata fino a quel periodo, e invece è stato un grosso impatto. Meno male che ne ho approfittato, alle Olimpiadi ero pronto, e da quel momento faccio anche una preparazione mentale che è lunghissima, e raccontarla adesso è difficile, però è un altro percorso stupendo. Preparazione psicofisica accuratissima, quindi, e so che curi anche in modo specifico la respirazione, vero? Sì, ho avuto ancora una volta la fortuna, perché tante volte, come nel lavoro, in qualunque lavoro, bisogna, per puntare in alto, incappare anche in dei momenti fortuiti, oltre che avere una gran base di preparazione. E io nel mio percorso ho incrociato un apneista, un ex apneista, che si occupa adesso nel post carriera di respirazione. Si chiama Mike Maric, mi ha insegnato davvero ad aumentare le mie prestazioni in pedana gestendo la respirazione, il che a 34 anni ti può allungare la resistenza specifica. Ed è quello che è successo dopo mesi di lavoro in pedana al mondiale. Nonostante la mia età e ragazzi che hanno 10 anni meno di me, io tenevo duro e a fine gara ero bello freddo. Ecco, a toglierti il respiro invece, cioè da scommetterci, come racconti nel tuo libro La Stoccata Vincente, edito da Sperling & Kupfer, la sconfitta rimediata dal venezuelano Limardo Gascon nei quarti di finale della gara individuale a Londra 2012, quando ti giocasti di fatto il sogno olimpico. This is now incredibly tense. Limardo Gascon leads 14-12. He just needs one more point and he's going to put out the seeded fourth player, the Italian Pozzi, Pizzo, and helmets off, the player seeded 12 has taken the Italian out. He's doing a lap, he's gonna get down on his knees. Sì, esatto, nel mio libro che hai citato, La Stoccata Vincente, c'è un ampio capitolo di quella sconfitta, il sogno infranto della prima Olimpiade di Londra 2012, dove, come hai detto bene, ho cercato di modificare, quasi pensando di poter mettere a freno la mia furia per gestire un match nel quale ero in vantaggio. E in un attimo invece ho cambiato la mia natura senza saperla in realtà gestire, e non sono stato capace di difendere quel vantaggio. In un attimo l'avversario venezuelano mi ha messo 6 stoccate di fila e sono andato a casa. Da quel giorno ho imparato che sono un attaccante, devo far questo, devo imporre il mio modo di essere, e non c'è altro da fare. Anche le sconfitte le vivo meglio in questa maniera. Beh, diciamo sconfitta salutare, ecco, almeno. Quest'anno quali obiettivi? L'obiettivo è... non c'è due senza tre. È chiaro che a questo punto mi hanno accomunato a Mangiarotti, perché nessun italiano nella squadra maschile aveva vinto mai 2 mondiali. Adesso siamo in 2 nell'Albo d'Oro, cosa che mi fa grandissimo onore. Col massimo rispetto di questo personaggio che ha fatto la storia, vorrei cercare magari di superarlo, perché no? Perché sognare non fa male, perché porti obiettivi più grandi di te e provare a raggiungerli in tutti i modi è la cosa più bella che uno possa fare. È quello che ti auguriamo, caro Paolo Pizzo. E intanto grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi di Olimpia, spero che che questa intervista mi porti bene, e allora a presto ancora per festeggiare la prossima medaglia. E allora, professor Tirelli, l'abbiamo appena sentito, Paolo Pizzo, davvero campione, straordinario e ragazzo davvero simpatico. Proviamo a cominciare a viaggiare nella sua mente, no? Come già abbiamo in qualche modo fatto. Ci ha raccontato della caduta a Londra 2012, quella sconfitta con quella rimonta subita proprio nel momento in cui in qualche modo ha tradito la sua natura di assaltatore, no? Di schermitore d'assalto, per provare ad essere più calcolatore. Ecco, questo tradire la propria natura in qualche modo è un dazio che alla fine anche lo sportivo paga? Sentiamo spesso la parola o la frase «Sii te stesso, be yourself», e questa è la chiave di lettura che vorrei proporre. In questo caso sappiamo che la sua vivacità, la sua istintiva grinta che lo caratterizza, in quell'occasione è venuta meno dopo un ragionamento di cambiamento. Ora io l'esempio che faccio spesso ai miei atleti è che ognuno di noi nasce come se fosse un albero, quindi c'è chi nasce per esempio come un ciliegio e c'è chi nasce come un abete, quindi l'uno non è diverso dall'altro in termini di migliore o peggiore, semplicemente ognuno di noi ha delle caratteristiche proprie, caratteristiche mentali, attitudinali, emozionali, fisiche, e sarebbe sempre meglio non tradirle, perché è sempre meglio seguire la nostra attitudine, la nostra radice. E poi col tempo si può anche lavorare per cambiare le cose, per modificarle. Eh sì, insomma, comunque diciamo la nostra natura è lavorabile, migliorabile, ma non può essere appunto snaturata totalmente, se capisco bene. Eh no, assolutamente, perché al limite io l'esempio di prima dico, guarda, tu puoi essere al limite il miglior ciliegio possibile per la tua vita e l'altro può essere il miglior abete possibile. Quindi smussando, migliorando alcuni elementi, ma non snaturandoci. C'è un motivo per il quale noi tutti siamo così. E il motivo è che questo mondo è il mondo dei differenti e delle differenze. Ed è necessario che tutti si sia diversi dagli altri per poterci arricchire con le nostre qualità. Eh sì, per poter essere foresta. Diciamo che, come lei gli chiedeva, Paolo si è dimostrato più volte anche uno splendido uomo squadra. In qualche modo l'essere inserito nel contesto del gruppo cambia questa attitudine, ci rende più, può rendere anche un campione che trionfa nello sport individuale più solidale. Beh, in questo caso specifico, conoscendo la sua storia, non è facile per Paolo essere uomo squadra, sebbene lui lo sia. Quindi questa è la sua caratteristica positiva. Perché? O nasciamo in grado di poter essere dei grandi diplomatici, di porre armonia all'interno del gruppo, o a volte lo diventiamo nonostante delle difficoltà riconosciute. Quando io sono in un ambiente nel quale non mi trovo totalmente a mio agio, perché sento in questo caso l'antagonismo, e in questo caso sportivo chiaramente, molto molto elevato, posso provare delle emozioni quasi di rabbia, di invidia. Se io riesco a trasformarle, così come lui ha fatto, in una forza dinamica propulsiva, di aggregazione e di grinta da distribuire, allora riesco a trasformare ciò che è potenzialmente negativo in ciò che è realmente molto positivo. Un'altra caratteristica curiosa della carriera di Pizzo è questo zero nella casella delle vittorie in Coppa del Mondo, no? Lui che in ben due occasioni ha trionfato invece nel campionato del mondo. Ecco, quel limite però è anche un punto di forza, forse è un atleta che sa dare veramente il meglio quando sente avvicinarsi il bersaglio più grande e più importante. Io mi rifaccio molto spesso anche alla visione per esempio della medicina cinese. Gli atleti di questo calibro con queste caratteristiche vengono denominati atleti dell'elemento legno. Cosa vuol dire legno? Essere dinamici, propulsivi nel momento opportuno e non un elemento per esempio terra. Terra in questo caso atleticamente significherebbe avere una costanza di rendimento lungo tutto un anno o cicli predefiniti. Lui ha una qualità che secondo me lo caratterizza e ci piace moltissimo sottolineare, che è la capacità di definire degli obiettivi nel senso di essere l'obiettivo, la sua salvezza. Nella vita stessa l'ha dimostrato. Quando ha avuto a che fare con dei momenti estremamente importanti e difficili, lui vedeva l'obiettivo oltre, raggiunto, già visualizzato, e questo noi lo chiamiamo, per esempio in ambito mental training, il goal setting, la capacità di vedere l'obiettivo realizzato già a prescindere da quello che sta accadendo adesso, e che spesso è la nostra ancora di salvezza. In momenti della vita difficili non dobbiamo buttarci completamente a terra, ma forse rialzarci, ma nel contempo già vedere quello che sta oltre la siepe, quello che è il nostro modo di vedere il futuro positivo. E così lui ha fatto e così lui ha vinto. E allora, professore, se ho ben capito, non resta che aspettare il prossimo graffio d'oro di Paolo Pizzo, che magari nel modo più inatteso, ma sicuramente arriverà. Allora, intanto grazie e in bocca al lupo a Paolo Pizzo, che è stato oggi nostro ospite qui a Olimpia, e grazie a Stefano Tirelli, il mio compagno di viaggio, docente di tecniche complementari sportive all'Università Cattolica di Milano. Professore, allora ci vediamo la prossima settimana, sempre qui a Olimpia, la città dello sport. Molto volentieri, grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.